1.85 veya newline.com'u tıklayın. Newline bir dizayn grup aspetti con la lettera di internet. Se batti contro gli amici tu non hai fatto un funzionario del bene, se sbagli su posto. I'm gonna go get some more.